Oh, la bici corre, papà, e torno mai sta. Oh, la bici corre, papà, e torno mai sta. Un momento. Questa è la storia di quella pesce. Una storia di terremoti. Perché la Sicilia tremava? La leggenda popolare vuole che la Sicilia si reggeva su tre colonne. Una di queste è la rotta. La colonna portante del terzo angolo di questo grandioso regno era quasi a pezzi. Fu così che il re mandò a chiamare Colapesce. Ma chi era Colapesce? C'era una volta nella Sicilia di tanti secoli fa un bambino chiamato Nicola. Per gli amici lui era Cola. E Cola passava giorno e notte a nuotare nel mare, era la sua unica vera passione. Stare nelle acque circondato dei pesci. E la mamma lo chiamava Cola, torna a casa! Cola niente, sempre nel mare. Un giorno gli mandò la maledizione, disse la mamma Cola, che tu possa diventare mezzo uomo e mezzo pesce. Cola, gli uscirono le pinne e le squame. Divenne dalla cintola in giù un pesce. La Sicilia, terra tormentata dai terremoti. Il re sapeva della fama di Colapesce che aveva ormai varcato terre e regioni e mandò a chiamare Cola. Disse Cola, signor Maestà, Cola, vai a vedere giù nel fondo del mare come sta messa la Sicilia, perché qua la terra trema. Va bene. La storia racconta come andarono i fatti. La gente lo chiamava Colapesce, perché stava in mare come un pesce. Se non veniva non lo sapeva nessuno, forse era figlio dello zio Nettuno. E un giorno con un re vicino a mari, Cola del mare corre bene. Cola, il regno scandagliari, su quale basamento si sostiene. Colapesce corre pava e torna mai sta. Colapesce corre pava e torna mai sta. E si getta in tal mare Colapesce, tutta l'onda subito sparisce. Ma dopo un poco questa novità allo regnante Colapesce dà. Maestà, li terri vostri stanno sopra tre pilastri, e lo fato stai tremendo che una già se sta rompendo. E lo destino mio infelice, che sventura mi predici, che agno re come agli affari, solo tu lo puoi salvare. E Colapesce corre papa e torna mai sta. Colapesce corre papa e torna mai sta. Pesce venne mandato giù nei fondali marini a cercare di riparare questa colonna, ma purtroppo la situazione era gravissima, la colonna era quasi rotta, stava quasi per crollare tutto il regno di Sicilia, così che lui fu costretto a rimanere nei fondali marini. Il re e la regina lo cercarono per anni, finalmente dopo tanto tempo lui mandò un grido da laggiù. Sono passati tanti anni, Colapesce non ritorna, lo aspetta la marina, lo regnante e la regina. Poi si sente, è la sua voce, e lo vuole in superficie. Maestà, maestà, sogno ca, sogno ca. è lo funno del mare e io non posso più tornare. Poi pregare la Madonna, io stai reggendo la colonna. Casino si spezzerà, casino si spezzerà, la Sicilia sparirà. Sono passati ormai 100 anni e con la biscia sempre da maestà, maestà.